America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, oggi vorrei parlarvi di filantropia anche perché è un'organizzazione di cui mi occupo qui dagli Stati Uniti, cioè Palazzo Strozzi, che fa appunto attività filantropiche e dunque, diciamo, non soltanto vi parlo di filantropia, ma cerco anch'io nel mio piccolo to give back, di restituire attraverso volontariato, attraverso opere di propria, un minimo di contributo per promuovere delle attività non profit, per esempio nel settore dell'educazione, ma per esempio nel riconoscimento proprio dell'importanza della filantropia. E dunque a Firenze ieri sera c'è stato un premio proprio dedicato a un filantropo, c'è un premio del Renaissance Man of the Year che è un premio dedicato a chi rappresenta quei valori filantropici di ispirazione, diciamo, dei medici, non tanto un uomo rinascimentale come può essere Michelangelo, Leonardo, ma proprio una persona che abbia avuto successo nel mondo degli affari, magari passando anche da momenti difficili, ma soprattutto promuovendo appunto filantropia con le donazioni. Il premiato di ieri è stato Viktor Pinchuk, che è un imprenditore ucraino. Devo dire, sul piano simbolico ovviamente il premio è andato a lui, ma è andato anche all'Ucraina che resiste. Io più volte vi ho parlato di Ucraina, vi ho raccontato anche la storia della canzone Dove sono finiti i fiori, che addirittura avevo tradotto, una canzone scritta da Pete Seeger su un testo ucraino e su musica russa. Dunque il multiculturalismo è importante, multiculturalismo di cui Viktor Pinchuk è stato simbolo, ma ha fatto qualcosa di più, ha fatto donazioni intorno al mondo, è membro in vari consigli di vari think tank importanti, per esempio americani come la Brookings Institutions oppure l'Institute for International Economics, ha partecipato ai lavori della Clinton Foundation, partecipa a Davos, ha aperto dei musei in Ucraina, ha fatto delle opere di bene nel settore sanitario e in quelli della società civile. Insomma, la filantropia, come vedete, c'è un po' dappertutto, anche in Ucraina che sta passando uno dei momenti più difficili della sua storia. Ecco, dell'importanza della filantropia, di quanto poi qui in America soprattutto sia radicata, vorrei parlarvi appunto nella puntata di oggi, partendo da una tradizione che ormai è diventata, come dire, una liturgia quasi per la filantropia in questo paese, e cioè le cene che raccolgono dei fondi. Sono delle cene piuttosto importanti, strutturate, organizzate, ci sono delle persone che vengono premiate, ci sono altri che acquistano dei tavoli, e in questo modo si raccolgono gran quantità di danari. Ce n'è una per esempio in cui si raccolgono, pensate, addirittura 30-40 milioni di dollari in una sola sera. Ecco, e partendo da questo, da queste cene a cui so che ha partecipato varie volte, che voglio parlare con Ernesto Caffon, professore di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena, che è anche il fondatore di Telefono Azzurro. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, lei è stato, mi raccontava che è stato a una di queste cene dove si raccolgono milioni di dollari, se non sbaglio, vero? Sì, la cena dell'ICMEC che era in onore di Jeff Koons e di altre persone che di fatto venivano onorate, e circa 500 persone presenti, la raccolta di quella serata è stata di 2 milioni di dollari. Ecco, 2 milioni di dollari in una serata, 500 persone, quindi è facile fare il conto più o meno quanto a persona queste persone spendono. Nel caso del costume ball, io so che il costo di un solo tavolo era di 175 mila dollari, quindi tavolo di 10 persone, 17.500 dollari a persona soltanto per sedersi a cena. Però mi sembra che ci sia anche una tecnica con cui si cerca di aumentare il livello della donazione, e cioè la tecnica dell'asta improvvisata. Sì, da una parte c'è un vantaggio fiscale sia nell'acquisto dei tavoli da parte delle aziende soprattutto, e oltre che da parte di gruppi familiari. D'altra parte c'è invece la messa all'asta di oggetti oppure di opportunità di viaggio, insieme a un sito che ad esempio ci si chiama Charity Boots, che permette di concorrere all'aumento l'audience, che tra l'altro anche al di là della sala stessa, perché le persone possono in qualche modo mettere in gioco talvolta dei beni e delle opportunità. Ad esempio in questa serata c'era la visita della struttura, se vogliamo, di produzione della componente artistica di Jeff Koons, con l'accompagnamento dello stesso artista, che è stata messa all'asta per 50 mila dollari. Ecco, quindi hanno messo all'asta una visita guidata nello studio di Jeff Koons con Jeff Koons. E quindi c'è stata un'asta e qualcuno ha pagato $50,000 per la visita. Ma Jeff Koons ha messo anche, mi pare, a un certo punto dei disegni all'asta, così degli schizzi. E com'è andata? Cioè, cosa è successo? Poi in queste situazioni c'è una grande emozione collettiva, c'è una grande competizione, per cui a un certo punto ha messo all'asta dei suoi disegni e in tavoli diversi c'è stata una forte competizione, arrivando a delle cifre molto alte, $70,000-$80,000 di acquisire questi disegni, e devo dire con una semplicità che sicuramente sorprendeva chi viene da un altro mondo come quello europeo. Ecco, sì, perché lì alzano le mani 20, 30, 40, 50, 60 e fanno a gara a vedere chi spara la cifra più grossa per poi acquistare qualcosa che è di un valore molto inferiore. Ecco, come la vive lei questa cosa vedendola dall'Italia? Ma dalla parte ci sono dei battitori molto capaci nello stimolare anche, devo dire, la dimensione pubblica dell'evento, anche perché le persone che danno questi contributi lo fanno in modo pubblico e quindi chiaramente si fanno identificare, e sicuramente va detto che è qualcosa di sorprendente per chi viene da altri mondi, perché vede cifre enormi che vengono giocate nell'ambito di una serata come donazioni, che seppur con un vantaggio fiscale però sono sempre molto importanti. Perché noi credo che già se qualcuno in Italia fa una donazione di alcune migliaia di euro, cioè, non si scarica. Ma secondo lei noi arriveremo ad avere questa sensibilità, perché abbiamo persone di grandi mezzi in Italia che potrebbero spendere, cioè non è che gli americani sono più ricchi, cioè ci saranno nel senso di numero assoluto, ce ne saranno magari di più, però ci sono degli italiani che stanno molto bene, e io non credo che la generosità dipenda soltanto dall'incoraggiamento fiscale, che poi comunque il risparmio fiscale è solo per una percentuale. E quindi torno alla domanda, ci arriveremo secondo lei? Ma secondo me sì, nel senso che è anche tempi non lunghissimi. Da una parte questo fenomeno in Europa sta crescendo, partendo dall'Inghilterra, l'Olanda, la Germania, incominciano ad esserci dei segni importanti in questa direzione, cioè il senso di un privato che si fa carico di un impegno sociale e anche, devo dire, con donazioni e contributi importanti. E poi c'è anche da dire che oggi l'impegno sociale di molti, anche artisti, come è stato il caso di Jeff Koons, incomincia ad essere significativo. Ecco, è un artista mondiale, perché oggi Jeff Koons forse è considerato, se non il, comunque uno dei due o tre grandi artisti contemporanei. Perché presta il suo nome a una serata di questo genere? Aveva una motivazione personale? Beh, forse, certo, immagino. Lui da anni si impegna sul tema della scomparsa dei minori, della sottrazione dei minori, per l'esperienza personale che ha avuto col primo figlio che ha avuto in Italia quando era sposato con Cicciolina, e da quel momento in cui gli è stato sottratto il bambino lui si è impegnato. Ecco, scusi, allora apriamo una parentesi per ricostruire. Dunque, Jeff Koons, grandissimo artista mondiale, ha passato questo periodo in Italia ed era aveva una storia, una relazione con Ilona Staller, diciamo, conosciuta da noi come Cicciolina e nel mondo come Cicciolina, e hanno avuto un figlio insieme. Ma non erano sposati? Erano sposati? Che tipo di relazione avevano? Lui si è sposato con Ilona Staller nel 91. Ludwig è nato nel 92. Da allora poi è nata una situazione complessa di relazioni che ha portato alla separazione e al fatto che Jeff Koons è tornato negli Stati Uniti e voleva tornare con anche il bambino, cosa che non gli è stata permessa. E quindi un giudice in Italia ha affidato il bambino, invece di affidarlo al padre, che era un artista, lo ha affidato alla madre, che era una pornostar, perché questa è la storia. Sì, diciamo che c'è stato un lungo dibattito, confronto. E questo perché? Perché non volevano far andare il bambino in America? Cosa succede? Sì, sicuramente. E non è stato permesso al bambino di essere affidato al padre, e quindi chiaramente il bambino non è mai venuto in America, e questo ha portato a una conflittualità fortissima anche con le istituzioni italiane. Il padre si è impegnato molto in questa battaglia a tutti i livelli. Quindi c'è questo straordinario lato umano di Jeff Koons, questo grandissimo artista, che però è preso da questo figlio che non riesce a vedere. Che non è riuscito a vederlo in America, se non recentissimamente, sì. Nel senso che lui veniva spesso in Italia a incontrare il figlio, devo dire con modalità anche spesso molto difficili, con un controllo costante da parte di avvocati, di altre persone, quindi non è mai stato libero di vedere questo figlio, che è rimasto per lui una persona centrale nella sua vita, e su lui si è impegnato tantissimo per farlo anche crescere in ambiti adeguati. Il bambino poi è cresciuto in Italia, quindi è un bambino italiano. È un bambino italiano, sì, che però da pochi giorni è venuto a trovare il padre in America, e speriamo possa in qualche modo continuare questo rapporto. Ah, quindi c'è una storia a lieto fine, quindi per la prima volta il ragazzo è venuto, ce la racconti? Questo sogno si è realizzato del fatto che Ludwig è venuto negli Stati Uniti, ha ritrovato il padre, la famiglia che intanto Jeff si era in qualche modo ha fatto crescere, e d'altra parte questo è un percorso molto positivo. Non sappiamo come questa storia potrà andare nel futuro, ma sicuramente va detto che finalmente è stato un ricongiungimento e un sogno forse può continuare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni, America 24, il professor Caffo. Allora, professore, una canzone ce la sceglie lei oggi? Una canzone di Susan Vega a Lucas, che è una canzone che rappresenta un po' quello che spesso succede e che non viene visto, che è la violenza che viene compiuta sui bambini e spesso resta invisibile. E allora, su scelta del professor Caffo, per voi di Susan Vega, Luca. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!